suoni della corrida. Stiamo andando in Spagna per parlare di crisi, per gli intrecci tra crisi e cultura, tra economia e cultura. Una settimana particolare quella spagnola, due notizie che hanno catturato la nostra attenzione. Quella dello sciopero, delle proteste, dei mimi viventi, che detta così fa anche sorridere, invece è sicuramente metafora di qualcosa che non funziona. E poi la corrida che è tornata dopo 6 anni in televisione, cosa che per fortuna ha scatenato proteste, però anche questo è segnale di qualcosa che sta cambiando. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato un amico dell'altra Europa, diamo il ben ritrovato a Toni Polo. Ciao Toni. Buongiorno. Buongiorno a te, come stai? Tutto bene, tutto a posto, più o meno. Toni, allora, abbiamo letto queste cose, una pagina sul quotidiano La Stampa con tanto di interviste ad alcuni di questi mimi viventi, artisti di strada. A Barcellona la cosa è stata regolamentata, mi pare lo scorso anno è stato messo il numero chiuso, a Madrid questo non c'è, però proteste nei confronti degli immigrati, dei mimi immigrati che vengono a rubare lavoro. Cosa sta succedendo? Ecco, secondo me questo parlavi prima di una metafora, no? Questo, cioè, più che una metafora, rappresenta che appunto la crisi arriva dappertutto, questa crisi economica che stiamo vivendo. Comunque il fatto sta che tutti questi mimi che fanno le statue viventi, a Barcellona sono sulle Ramblas, a Madrid sono nei pressi della Puerta del Sol, Calle Preciados, eccetera, si lamentano perché adesso arrivano molti, soprattutto romeni, che senza essere veramente artisti si dedicano a fare pure loro le statue viventi. E allora quelli che stavano già prima, che molti sono o studenti o sono artisti che hanno studiato, eccetera, si lamentano che tolgono un po' i soldi che possono guadagnare, se li prendano loro senza aver fatto dei meriti, in un certo senso, no? Uno potrebbe dire sempre la strada è di tutti, no? Che infatti è quello che immagino dicono questi romeni che cercano di trovarsi la vita. Il caso opposto è quello di Barcellona, che addirittura l'abbiamo anche parlato qua l'anno scorso. Sì, è vero, certo. A Barcellona si sono fatti dei permessi con una trentina di persone, di artisti, che dovevano testimoniare che loro erano artisti, un certo curriculum, per guadagnarsi il posto, di queste 30 persone. Li hanno spostati alla parte più verso il porto della Rambla e sono lì. Qui c'è stato pure il problema, perché quindi molti dicono che a Madrid la soluzione sarebbe questa. A Barcellona però ci sono stati altri problemi, perché infatti si diceva che molti dicevano possono essere mini artisti che possono dimostrare di avere studi, di avere studiato, però poi non hanno l'esperienza forse. E poi ce ne sono altri molto bravi, infatti ce n'erano molto molto conosciuti alla Ramblas, che però non hanno ottenuto questi permessi. Certo, quindi insomma un segnale, come dicevi prima tu, di questa crisi che sta penetrando in tutti i settori. E in tutto ciò rispunta fuori la corrida, anche qui con dati contraddittori, perché alcuni sondaggi dicono che sia gli under 30, ma anche le persone anziane proprio sono ormai lontane da questa cultura, da questo spettacolo, però c'è voglia, però sta rispuntando fuori il desiderio di rendere la corrida comunque al centro degli eventi spagnoli? Sì, in parte, cioè, secondo quelli che seguono la corrida, non sono pochi in Spagna, non ci inganniamo, però 6 anni fa c'è stata questa legge, televisione spagnola, la televisione pubblica ha proibito la retrasmissione in diretta di corride, infatti non ne ha parlato più praticamente, soltanto per esempio il programma settimanale Tendido Zero, questo lo continuavano a fare, ed era un programma che per i taurini era un programma molto, cioè era veramente una cosa seria, fatta bene. quindi si rispettava in un certo senso. Quello che non permettevano era la retrasmissione in diretta, perché si diceva che era in orario infantile, sì. Le corride sono alle 6, le 7 del pomeriggio d'estate, quindi è un orario in cui non conviene che si veda come muore un toro, no? Per esempio, si è parlato pure della difesa degli animali, certo. Si è parlato addirittura di incitazione alla violenza, mm-hmm. Però adesso c'era la messa del toro, che si chiama, che è una specie di comitato che raggruppa allevatori, i manager dei toreri, alcuni toreri, hanno parlato con la nuova, col governo Rajoy c'è stata una nuova, altri hanno preso il potere, la direzione della televisione pubblica, hanno parlato e sono arrivati a questo, hanno raggiunto questo accordo di riprendere le riprese della corrida. Perfetto. La prima è stata questo mercoledì a Valladolid. Sì, c'è da dire che era una corrida, c'erano il Juli, Manzanares e Talavante, sono tre toreri tra i 4 e 5 migliori, sarebbe, parlando di calcio, sarebbe come se giocassero un Barça-Madrid, no? Ho capito. Ovviamente. L'udienza è salita rispetto a un mercoledì pomeriggio normale, no? Quindi insomma il pubblico la cerca, in me la corrida. Tony, prima di salutarci, un ultimo aspetto di quello che sta accadendo in Spagna, questa IVA, uh-huh. L'IVA che è salita al 21% e sta ammazzando il settore culturale? Il settore culturale è molto adesso, molto preoccupato, ma molto. Adesso ieri hanno pubblicato una lettera di tutte queste associazioni coinvolte nell'industria culturale, perché dall'IVA ridotto dell'8% si è passato dall'1 settembre al 21%. Il governo dice che bisogna differenziare tra cultura e trattenimento o divertimento, dall'altra parte il settore culturale dice qui si sta ammazzando la cultura, cioè hanno parlato, parole molto dure, parlano della deplorevole concezione della cultura che ha il Ministero delle Finanze in Spagna, dicono che l'opinione che ha dell'arte e della cultura è molto, molto pericolosa. Bisogna pensare anche che i presupposti per la cultura in questa epoca di crisi stanno subendo molte, molte riduzioni, quindi è un settore che le perdite potrebbero essere molto grandi, no? Certo. Tony, come sempre, grazie per averci fotografato un po' la situazione. Tu su cosa stai lavorando in questo periodo? Adesso sto lavorando sul tema del teatro. Adesso comincia la stagione di teatro a Barcellona, in tutta la Spagna. Io mi centro soprattutto a Barcellona, Catalogna. E siamo lì subendo tutti questi problemi, soprattutto perché adesso inizia la stagione, inizia la temporada teatrale, e veramente sarà dura. Per la cultura, veramente. Speriamo davvero. Ciao Tony, buon lavoro, grazie come sempre. Grazie a voi, ciao ciao.